far soperte la testa che avevo per 11 anni. Da allora il palato fine è già predisposto a far danni con te. Mi sfogo, parlo dei miei limiti e traguardi, di quanti mi odiano a sto mondo, a quanto mi fumo in grammi. Non mi fa stare in pensiero, c'è poco da preoccuparmi. Se il mio unico pensiero, ciecamente posso fidarmi. Non puoi tradirmi, sei l'unica che sa consolarmi. Tu puoi capirmi, bastonare o coccolarmi. So che se fatta così io non ne faccio un dramma. Accendo l'ennesimo spliff, parliamone con un po' più calma. Vorrei tutta la vita con te sentirti sempre così calda. Svegliarmi ogni mattino con la tua testa sopra la mia spalla. Sentirti felice anche quando mi prendi in giro, perché so che mi vuoi bene. Quando ti abbraccio senti il tuo respiro e il cuore battere forte, per questo che ti ammiro. Tu mi piaci così, fai parte del mio destino. Ho un milione di cose da raccontarmi. Quando ti fisso tu già sai ipnotizzarmi. Resto fermo mentre nella mia testa parli. Fuori esce il sole, mi sa che si è fatto tardi. Accanto a me so che ci sarai per sempre. So che ci sei. Senza di te sarei niente. In ogni istante al mio fianco, anima, cuore e mente. Vivo per te, la luce del mio presente. Ed essi sentivo due cammini di Dora Pazzai. Poeta Gandar Ruizzi, tocca si stata lei. Affrontai, saziara, da stare a gaffare i mali. Voi cercai, desi vai, intendi essa travati desi mari. Essa fatica mancara, questa vita mia. Batti si da conca e non ti mi si sa polizia. Se si libertare in questo periodo da carestia. Sa luce su soli, passa prima porta via. Se si su chi vuole, me chi vuole, chi è musi giri a volo. Beni casi ollo, giurami tu non mi morri, sì. Eri tu una, alcuni spago schide in questi occhi. Sul risultato arriva con si impegno. Chi mamma chi una ramica, so galloni. Du sciuga in questo mondo, non c'è sti un'altra occasione. Ci sei sempre, se si brudono emozioni. De vuoi tu impari, gaffanti se tu non gori. Accanto a me so che ci sarai per sempre. So che ci sei. Senza di te sarei niente. In ogni istante al mio fianco, anima, cuore e mente. Vivo per te, la luce del mio presente. Per ogni istante che ho passato con te, le notate che hai fatto con me. Se esiste la passione è solo vuoto intorno. Tu semplicemente sempre il mio buongiorno. Ho un milione di cose da raccontarmi. Quando ti fisso tu già sai ipnotizzarmi. Resto fermo mentre nella mia testa parli. Fuori esce il sole, mi sa che si è fatto tardi. Accanto a me so che ci sarai per sempre. So che ci sei. Senza di te sarei niente. In ogni istante al mio fianco,